Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buongiorno e buona domenica a tutti, benvenuti a Magazine 24, appuntamento la domenica ma anche il sabato, come sapete, con le riviste, con i magazine in edicola. Voglio cominciare questa mattina con una buona notizia che da parte mia vuole anche essere una galanteria. Le donne italiane sono in forma, non hanno bisogno di diete particolari, questo dicono le statistiche, dicono le rilevazioni, e la notizia sta sull'Espresso, quindi non avete bisogno di diete, care signore, siete in forma. Le donne italiane, scrive infatti Agnese Codignola sull'Espresso, sono quasi le più virtuose del pianeta quanto a peso corporeo. Pur non essendo le più magre, sono infatti praticamente le uniche, insieme alle donne di Singapore, che negli ultimi 20 anni non hanno messo su chili. E anzi, come dato medio ovviamente, sono passate da una zona borderline, già nell'insidioso campo del sovrappeso, alla piena normalità. Lo dice uno dei più grandi studi mai realizzati sull'argomento. Gli autori sono epidemiologi e specialisti di diversi dipartimenti delle università di Harvard e di Oxford, riuniti in un gruppo globale, mondiale, appunto dedicato ai rischi del metabolismo. Hanno confrontato questi signori l'andamento del peso, in realtà dell'indice di massa corporea o BMI, che si ottiene con il rapporto tra peso in chili e quadrato dell'altezza espressa in metri, del colesterolo, della pressione in circa 200 paesi, hanno selezionato anche studi nazionali e regionali, li hanno sottoposti al rigore della statistica, hanno preso così le misure di svariati milioni di persone in tutte le latitudini. I dati sono stati raccolti scandagliando molti studi appunto tra il 1980 e il 2008. In generale, va detto, le cose non vanno bene, perché negli ultimi 20 anni risulta che il BMI, cioè questo indice di massa corporea, sia aumentato di 4 punti decimali, cioè di uno 0,4 ogni 10 anni tra i maschi e di uno 0,5 tra le femmine. Ma le italiane sono invece passate dal 25,2, dal valore di 25,2 che era del 1980, e bisogna sapere che la soglia del sovrappeso viene posta a 25, al 24,9 del 1990 e al 24,8, quindi hanno fatto ancora meglio nel 2008. Agli uomini, va detto, non è andata così bene, perché ci avverte l'Espresso, il nostro peso è rimasto sostanzialmente stabile al confine appunto tra normalità e sovrappeso intorno a questo benedetto 25. A salvare le italiane, secondo gli esperti, è proprio la cultura millenaria, perché negli ultimi decenni, grazie ai risultati di studi sempre più numerosi, hanno trovato conforto e forti motivazioni nel perseguire abitudini alimentari che appartenevano alle loro nonne e che ponevano al centro di tutto la dieta mediterranea. Tra l'altro, Carlo Lavecchia, che è epidemiologo e fa parte dell'Istituto Mario Negri di Milano, da anni segue l'andamento appunto di valori come il peso, il colesterolo, la pressione e anche della mortalità delle malattie che possono essere collegate a questo tipo di sbalzi. Carlo Lavecchia, dicevo, sempre in questo articolo di Agnese Codignola sull'Espresso, ci ricorda che talvolta sentiamo notizie inesatte sul peso degli italiani e non va affatto male invece. Se pensiamo, dice Lavecchia, che negli Stati Uniti gli obesi sono circa il 30%, mentre da noi il tasso da anni è fermo tra il 5 e il 7%. Quindi se ricordiamo questo dato, continua la vecchia, capiamo che spesso allarmi che sono più che motivati altrove vengono magari importati in modo acritico qui in Italia senza vedere che la situazione da noi è profondamente diversa. Perché? Perché ci sono di certo cause culturali come la dieta mediterranea che fa parte del DNA di ciascuno di noi, ma ci sono anche le campagne di educazione alimentare che hanno sortito degli effetti e negli anni sono servite ai genitori per nutrire meglio i figli, hanno impedito tra l'altro l'importazione massiccia di alcune pessime abitudini estere. Ad esempio, conclude la vecchia, le porzioni da noi non sono aumentate come negli Stati Uniti e nemmeno il sale. Al contrario, vediamo che è cresciuto il consumo di frutta e verdura ed è sceso drasticamente fino a dimezzarsi quello di alcol. Sull'attività fisica, beh, va bene, va praticata per mille altri motivi, ma in realtà poi con la dieta ha un effetto, diciamo, più complessivo e non immediato nella perdita di peso. E ho concluso con questa buona notizia della domenica. Restiamo in qualche modo in tema di buone notizie. La storia di una maestra elementare a Porta Palazzo a Torino. La trago da E, che è il mensile appunto arrivato al terzo numero, che fa parte appunto di Peace Reporter. C'è una storia, ci sono molte storie dentro questo mensile che parlano di integrazione di vita in paesi diversi dall'Italia. Qui si parla di persone non italiane che vivono in Italia. Il racconto è di una maestra elementare che appunto insegna a Porta Palazzo. Il quartiere di Porta Palazzo a Torino è famoso, come spiega lei stessa, per il suo vivacissimo mercato rionale, e in classe questa maestra dice: entro e vedo tutti i colori del mondo. Ci sono bambini senegalesi, cinesi, nordafricani, romeni, un paio di italiani. Qualcuno parla la nostra lingua, qualcuno mette insieme pochi vocaboli, altri sono muti come pesci perché sono appena arrivati. Però, dice, la Babele linguistica non è un problema. In classe c'è sempre un anziano, tra virgolette, si tratta di bambini delle elementari, che si offre di spiegare al nuovo compagno cosa sta dicendo la maestra. Si siedono gli uni vicini agli altri e confabulano. Così mi capita di vedere scene buffe, cinesi che imprecano in napoletano o russi a cui scappa qualche parolaccia in arabo. Alla fine io stesso ho imparato parole in quasi tutte le lingue del mondo. Certo, vedere un cinese che racconta la storia dell'antica Roma mi sorprende, ma ancora di più mi sorprende la naturalezza con cui lo fa. Ci informa tra l'altro questa maestra che la percentuale di bambini non italiani nella sua scuola appunto a Porta Palazzo sfiora il 90%, e conclude però dicendo: non dimentico mai che sono anch'io una migrante come loro. Anche lei infatti nata a Modica in Sicilia, poi ha deciso di spostarsi a Torino appunto per poter insegnare, 1300 km di distanza, dice, per la prima volta si è spostata, ricorda, per 2 settimane di supplenza. E sempre su questo tema, cioè di come dire, italiani di oggi e ancora di più di domani, torna anche Antonio Mazzi, Don Mazzi, sulla sua pagina di Famiglia Cristiana, che parla della generazione 1 e mezzo. Cos'è questa generazione 1 e mezzo? È il modo con cui si definiscono i bambini, gli adolescenti ricongiunti, cioè quelli che crescono un po' con i nonni al paese d'origine e poi raggiungono i genitori in Italia. Dice: la trasformazione che questi bambini devono affrontare nel loro spostamento, quando già magari grandicelli vengono poi chiamati dai genitori in Italia, viene spesso sottovalutata, perché le abitudini vengono stravolte, dice Don Mazzi, l'aria e l'atmosfera sono diversissime, il contesto abitativo per loro è assurdo e colori, sapori e tempi impossibili da metabolizzare in poco tempo. Eppure, dice, anche il caso di recente di un bambino che appunto ha subito un trauma tale da dover essere ricoverato perché non riusciva ad affrontare questo cambiamento. Lui era senegalese, si era appena trasferito a Savona in Italia, e il passaggio appunto dal Senegal all'Italia era stato per lui particolarmente traumatico. Dice: questo caso ci dovrebbe far riflettere su quanto accade alla gente, in particolare ai bambini che arrivano da noi. Siamo specializzati nel brontolare, escludere, criticare, giudicare quando si tratta di emigrati. Siamo poi sensibilissimi ai cambiamenti minimi nei quali si vengono a trovare i nostri figli. Un po' di caldo, di freddo, normali scomodità mettono in circolo agitazioni esagerate. Allora spero che questo episodio, scrive Don Mazzi, arricchisca un po' di più le nostre sensibilità, le nostre attenzioni, elevi la nostra accoglienza a livelli più decenti, che magari non si fermano solo alla scuola e alla casa. Ancora da Famiglia Cristiana, ancora storie di persone che viaggiano, giovani che viaggiano, cittadini del mondo. Famiglia Cristiana dedica un buon numero di pagine in questo numero a Erasmus. Erasmus è un progetto appunto che fa spostare gli universitari in università non del loro paese, in atenei non del loro paese. Le pagine si aprono con un articolo di Renata Maderna intitolato appunto Generazione Erasmus. È una generazione che è molto contenta appunto a leggere queste pagine di questa esperienza, di questi mesi trascorsi fuori dall'Italia. E c'è poi una storia affidata alla penna di Maria Gallelli, che è quella di Fabio Mauro, 34 anni, è nato in Svizzera da genitori che erano emigrati italiani, è rimasto in Svizzera fino ai 5 anni, poi è tornato in paese. dove ha iniziato ad andare a scuola, dal suo paese, quindi da San Benedetto del Tronto, e poi si è poi spostato a Bologna, si è iscritto alla facoltà di ingegneria e poi alla fine è andato ad Aalborg. Aalborg è una deliziosa cittadina della Danimarca, lì ci è andato per fare 6 mesi di Erasmus, appunto, e racconta a Maria Gallelli: ho conosciuto persone di tutto il mondo, ho visto come il nostro livello di preparazione sia superiore dal punto di vista teorico, ma ci manchino i contatti pratici con la realtà. All'estero laboratori e infrastrutture non sono soltanto dei nomi, così come i rapporti tra aziende e facoltà. Non parlavo bene l'inglese prima, pur avendolo studiato per anni, lì finalmente l'ho imparato. Attualmente questo giovane 34enne vive in Texas dopo un passaggio a Milano e dopo essersi tra l'altro sposato a Milano con Anna, che è nata a Bucarest ma si era spostata a Milano. Non sappiamo, non viene spiegato se per Erasmus anche lei o per altri motivi. Magazine 24. Bentornati, vi voglio parlare dell'inizio del quarto giorno. Il quarto giorno comincia in questo modo. L'uomo che prima o poi avrei dovuto uccidere mi aveva salvato la pelle e mi guidava, tenendomi per mano, nei meandri del Gran Bazar di Istanbul. Si vedeva che era pratico di quel territorio, perché nessun tipo baffuto cercava di vendergli un tappeto. Vi ho detto 1000 volte che il contatto del bazar non era più buono, mormorò mentre raggiungevamo l'uscita. Già, mi limitai a dire. Allora l'incarico mi fissò negli occhi. In qualche modo le mie parole gli avevano appena rivelato che non ero chi si aspettava. L'osservai anch'io. Era un tipo dal fisico robusto, con i muscoli allenati dalla continua pratica sportiva. Si capiva che era un uomo deciso, abituato a imporsi con la sua schiacciante sicurezza, e mi fece ridere vederlo con la fronte aggrottata mentre pensava in fretta e furia, tentando di riprendersi dalla sorpresa. «Ma chi diavolo sei?» chiese, portando la mano alla cintura per ricordarmi che aveva una 38 col silenziatore. «Sono l'angelo sterminatore. Ho l'ordine di ucciderti, ma non qui. Non so ancora dove ti ammazzerò. Lo vedremo quando arriverà il momento». È Luis Sepúlveda, nel suo Diario di un killer sentimentale, il racconto d'autore che trovate oggi con Il Sole 24 Ore, la terza uscita di questi racconti d'autore. Questo è il quarto giorno. L'attacco sono tra i primi periodi, appunto, del quarto giorno, perché il racconto è strutturato, tra l'altro, in 7 giorni. Per portarci magari alla successiva puntata, vi posso già anticipare che la prossima uscita sarà di John Fante, con un racconto dal titolo Rapimento in famiglia, e non solo, perché sarà una raccolta di brevi racconti, appunto, di John Fante. Luis Sepúlveda, oggi in edicola con Il Sole 24 Ore. E allora, da un killer che viaggia molto, questo killer, tra l'altro, questo killer sentimentale di Sepúlveda, comincia a Madrid, poi si sposta a Parigi. In queste righe l'abbiamo ritrovato a Istanbul e via via girerà ancora nel corso di questo racconto. Anche noi viaggiamo, ma questa volta nel tempo, per raccontarvi una storia di teatri che riguarda i teatri antichi. Una storia che ci sembra molto adeguata alla radio, perché i teatri antichi, come sappiamo, se ne abbiamo visitato qualcuno magari in condizioni ancora ben di buona conservazione, erano dei capolavori di acustica. E si scopre, appunto, leggendo questo articolo su Storica di questo mese, articolo di Maurizio Landi, che i latini, specialmente i romani, avevano delle tecniche molto evolute per la diffusione dell'acustica, che partivano dalla costruzione ma poi si giovavano anche di altre particolarità costruttive. Innanzitutto, vabbè, Vitruvio, che è il più grande architetto di epoca romana, ha lasciato anche una serie di opere, appunto, per gli architetti dei secoli a venire. Spiega che la sezione, la cavea del teatro, doveva essere fatta in modo che tutti gli spigoli dei gradoni potessero essere collegati da un filo teso. Questa regola costruttiva puntava, spiega Landi, a non interferire sulla propagazione delle onde sonore, delle quali i romani avevano molto ben intuito il comportamento, perché Vitruvio stesso scriveva: «La voce è un respiro d'aria fluente, percepibile all'orecchio per contatto. Si muove in un numero infinito di giri circolari come le innumerevoli onde circolari. Quindi l'assenza di ostacoli rende fluido il moto delle onde sonore e tutte», scriveva Vitruvio, «raggiungono gli orecchi orecchi degli spettatori, sia quelli più in basso, sia quelli più in alto e senza eco. Una teoria che certamente si fondava su conoscenze empiriche, ma che è stata poi confermata pienamente dalle nostre conoscenze moderne di acustica. C'è una particolarità che apprendo proprio da questo numero di Storica. I romani si servivano anche di celle acustiche che venivano messe sotto i gradoni dove si sedevano gli spettatori, che dovevano servire a ridurre il riverbero e quindi a contemporaneamente propagare meglio le onde sonore e ridurre la dispersione del suono. Si doveva trattare di vasi di bronzo che irradiavano con l'energia sonora come fossero un po' degli altoparlanti. Studiando delle teorie del suono che erano di Aristotele e Aristosseno, Vitruvio tra l'altro propone la collocazione di 13 celle, quindi 13 vasi, ognuna in grado di amplificare una certa frequenza, quindi alcuni risuonatori dovevano essere accordati per il sistema enarmonico, altri per quelli cromatici e poi altri ancora per quelli diatonici. In questo modo appunto si coprivano i modi musicali principali che venivano utilizzati nella Grecia antica e poi anche a Roma. Non abbiamo trovato conferme di questi vasi, ma il motivo è molto semplice: probabilmente dei grossi vasi di bronzo erano un bottino molto pregiato per chi voleva arricchirsi spoliando appunto le vestigia dei teatri antichi. E allora dai tempi antichi, dai teatri antichi ai tempi moderni, Facebook e i tredicenni. Perché ve ne parlo? Ve ne parlo perché Vanity Fair appunto si pone il problema di come gestire Facebook quando si hanno figli adolescenti o preadolescenti. Per chi non lo sapesse, Facebook attualmente ha un limite, ha un divieto, non sempre rispettatissimo devo dire, di iscrizione per chi ha meno di 13 anni. È un limite che appunto anche Silvia Bombino su Vanity Fair definisce ormai formale, e tanto che Mark Zuckerberg, cioè il fondatore, il guru di Facebook, vorrebbe abolire questo divieto di accesso e consentire un divieto di accesso senza limiti di età appunto al social network. Però ci sono diversi esperti che sconsigliano appunto di avvicinarsi ai social network e a Facebook prima di una certa età. Per i genitori, dice appunto Silvia Bombino, può essere un incubo, ci si trova davanti dei bambini delle elementari con delle richieste da adolescenti. La domanda "posso iscrivermi a Facebook" arriva ormai anche a 9 o 10 anni, però prima dei 14, gli esperti sono concordi, è comunque presto. La fascia di età tra 11 e 14 resta comunque la più vulnerabile, il corpo cambia, la mente non è ancora preparata. E via via ci sono una decina di consigli per chi va su Facebook di nascosto, per chi ha figli che vanno su Facebook di nascosto, per come poter monitorare, non diciamo controllare, magari un brutto verbo, ma insomma monitorare il comportamento degli adolescenti, dei preadolescenti alle prese con i social network. La regola, volendo riassumerla in estrema sintesi, è lasciarli fare ma non lasciarli soli, poter in qualche modo sempre intervenire e anche, se del caso, vietare alcuni comportamenti o stare attenti ad alcuni comportamenti che possono essere sviluppati dai social network. No regrets, although our love affair has gone astray. No regrets, I know I'll always care though you're away. Somehow happy romance ended suddenly. Allora, visto che il tempo stava quasi scadendo, Pietro Lacorte molto gentilmente ha messo questo passaggio di Billie Holiday, la grande Billie Holiday, che canta qui No Regrets. È una delle canzoni che trovate nel CD dedicato ai miti del jazz. Billie Holiday è l'uscita che proponiamo da martedì. Tra l'altro questa è un'incisione del 1937. Ve l'ho voluta far sentire proprio in chiusura della nostra puntata, chiusura che utilizzo poi per ringraziare naturalmente ancora l'ottimo Pietro anche per questa scelta musicale. Grazie ad Anita Panizza che mi ha aiutato a preparare questa puntata. Magazine 24 ritorna sabato prossimo. Noi chiudiamo sulle note di No Regrets di Billie Holiday.